Fiorentina a Roma. Ehi, alza il volume. E se ti rispondo c'è il volume abbassato. Sono 3 ore, già me. Ehi, 3 ore già. Io prima di quest'ora non entro. Non entro, esco alle 4, 4 e mezza. Poi mi riposo un pochino. No, mi riposo. Mi sono seduto adesso, acceso la televisione, c'è la partita. Fiorentina a Roma, alle 8 e mezza c'è la Juventus, ecco che Giulio non intendi. Effendi di gestione di Bassidi, te la rimane Luci. Semifinale di Coppa Italia, ieri ha giocato il Milan e ha vinto il Milan ieri contro il Napoli è stato eliminato dalla Coppa. Adesso oggi c'è Fiorentina a Roma, sta facendo la Fiorentina a Roma Zesci, e poi stanotte c'è, alle 8 e mezza c'è Atalanta Juventus. No, e io ho la televisione qua grande apparente, quindi faccio uno e l'altro. Giulio non lo so dove c'era la televisione. Sì, c'era anche il campo, chissà, che qualche volta dice devo spegnere, ma che so, vogliamo che sta guardando la televisione, quindi per quello che deduco che ce l'abbia anche in casa, la campa. Non so. C'è Luca PMR. Graziano. Niente. La posizione regolare di Chiesa. Che scelta, così mai per il vostro gruppo. Ehi, stanno sparando chi è PMR, chi è supercito, tutta la conversione, no? È come quando metti, si parla di che si dispersa un gruppo, così è per la città. Metti altre cose e non vengono per frequenza. Già, ognuno li vuole fare quello che vuole. Anche sul 23 sta entrando più nessuno, sono sempre di parlare di PMR. A me non mi interessa. Ho finito di preoccuparmi degli altri, adesso mi preoccupo per me. Io mi c'avevo la radio accesa, il volume alto e la squelce chiuso. Come hai schiacciato, ti ho sentito. Se chiamano, se c'è gente, io rispondo, se no non andate cani sciul, me la futta sé, tanto la radio te l'ho detto. Passate secondo ordine, non c'è più niente. Io non è che mi sia preoccupato da queste cose che deve tenere il paciente, però è quello che vedo là. Eugenio, non c'è. allucinante. Una di entra, sta seduta la ghetta, la voce rettita, sta un mese che non fa entra. Sì, vabbè, cazzo, sono uscite le marmotte adesso dal letargo, può uscire anche lui. Però, penso che dorma molto, non lo so, però c'ha degli orari balotti. Con questo sacco... Delle cose, no. Ferrari, ci siamo adesso, la sera ci siamo quasi sempre. Io mi siedo qua a guardarmi la TV perché lei ci guarda Studio Aperto, Maria De Filippi, Isabella Barbara Russo. A me poco mi interessa, ma mi sono fatto l'impianto qua. La televisione che avevo cambiato, che era ancora buona, è un 36 pollici, l'ho messo a parete. E mi guardo lo sport e mi guardo le cose che interessano a me. Adesso c'è un po' di spazio in questa stanza. Sul divanetto anche, figurati, cioè, e me ne trovo qua, e ci è dopo un gioco già vado, tutta la lì, in tanato, in chi si aggaggia, e poi non esce, non so perché non è, da se qui casa, se non è che esce con la mamma, fa la sveglia, tu, ma è perché non conoscete. Con la mamma esce, non fa ripresa. Io la mattina esco la prima uscita la faccio alle 8:30, vado a prendermi il caffè, do un'occhiata al giornale, compro sigarette e rientro verso le 9. Alle 9:15, 9:10 così porto a Filippo sino alle 10. E poi sono andato all'Ero Spin, ho fatto tutta la spesa a mia moglie che le serviva, carico dell'acqua, le cose, e poi sono uscito fino a mezzogiorno e mezza. Sono passato lì da Roberto, tra due chiacchie, sono rimasto lì, poi sono andato a trovare un altro amico, sempre in officina, e poi rientro a casa, io poi rientro a casa all'1:15, ma perché stava piovendo, poi non esco più. La mattina quando non piove, come oggi, ero impegnato nel mio solito lavoro, ma io non esci bru, credo un po' che ho capo pure. Penso che esca la sera con coso, con il figlio di Giuseppe, con Ivan, non lo so. Io mi avevo mandato un messaggio, sì, già entro, ero un po' impegnato qui, là, mi 2-0 a Violettina d'Egitto a Roma anda da Robabba a farci venire lì. E vabbè, comunque ti ripeto, io pregare se vai a chiesa, se vuoi entra. Ieri sera poi sei sparito, non so che sia successo, è entrato Walter. Sono sparito perché è mancata la luce, la casa. Io infatti qualcosa è tanto sarà successo, è stato fatto, mi ha fatto due chiacchiere, stava provando anche lui la radio uguale alla mia, e poi niente, poi io sono andato a prendere, a portare il cane e ho chiuso giappa. E ogni tanto già entra Walter a salutare qua nel 10, se è in sala radio già entra. Va bene. Ma so che sta arrivando anche nel canale di Vista e di Santa Paola. Io vabbè, lì a volte si mette con Marco a fare due prove tra di loro, ma qua entra tutti a chiacchierare. Non lo so, io li ho sentiti una volta solo, ma di solito anche l'altra volta erano qua, sul 10, facendo prove. Ho detto io ero in ascolto sul 10, invece il giorno che stavano facendo le prove ero Marco, non c'ero io, ero giù. Avevo le radio accese ma ero giù, mi avevano chiamato, è arrivato materiale, cemento, roba che ci serve per fare i lavori, quindi la faccio scaricare sotto nel... dove c'è l'autoclave, la sala autoclave, capito? niente, se no si bagna, e quindi sono dovuto scendere la briga a fare. Ciao genio. Se tutto a posto, perché mi controllo sia l'acqua che la luce, capito? Io controllo i kilowatt, se corrispondono, tutto, eppure abbago, se no telefoneggio all'Enel, come è già successo. No, assolutamente no, luce e acqua, io, vabbè, l'acqua la paghiamo col condominio, ma anche lì io mi sono messo, quando stavo lavorando, il contattore nella raffreddiera mia personale, di Novaniciuno, un barazzo, non serve a niente, però mi segna i metri cubi e io me li controllo in base a quello che lui manda da pagare a Ferrivi, dalla banca Baga, e tu non leggi nulla. Se c'è un errore ti appaga il pantalone, no, prima giudici, quando leggo e corrisponde al vero, allora pago, se no contesto. Capito, mio? Non mio, ho pagato il bollo, circolazione, luce anche io, telefono non ne ho, quindi non mi interessa. L'acqua è nel condominio, e gennaio è così già. E tutti con quadro. Ma infatti, e tu lasci che la banca paghi? No, io volevo vedere prima, io avevo fatto un periodo per non andare alle poste, poi ho tolto il RID, l'ho tolto, perché io voglio leggere, cioè voglio capire il mio consumo, se ci sono cose, capite? Così un Tiscali, andavo via il Tiscali, c'avevo lo stesso debito in banca, e c'era stato un aumento, come pare pagavo 38 o 48. Un giorno così ero in banca per fare il proprio, ho detto, ma fare il tratto conto, sbagliando di 2 mesi, Tiscali, 52 euro, 56 euro, ma ha detto, ma Tiscali mi pare che sia 46 o 48 euro. Ho chiamato, sì, abbiamo fatto la lettera, mi avete fatto che c'è stato un aumento di Goja, sono una Goja, Bogan è dotto, ho tolto il RID subito, il conto corrente che mi hanno mandato dopo gli ho pagato perché sono andato in morosità e non ho giocato più. No, io devo vedere quei buchi conto correnti che arrivano, io devo vedere cosa devo pagare, perché la banca non gli ha fatto niente, la banca se arriva a 100 euro, 100 euro paga, quando mi serve di una cosa ne ha futti, però io voglio capire perché sto pagando da 50 a 100. Sei una persona di comunità, per non stare a andare, io non so la casa tua, vado a dormire, io sono solo e devo fare questo da solo, se non mi restringo così, mi resta addosso, così. Già li controllo, perché le fatture andranno anche a me, sono sempre qui, sono sempre controllato. Quando mi arrivo io le controllo, posso sempre, anche se adesso ho già pagato, posso sempre dimostrare che è sbagliato, ma cerco sempre di alleviare i problemi. Sì, già una volta che è pagato, anche lei nella me mi aveva fatto un rimborso per una contestazione che avevo fatto. Ci sono passati 6 mesi, intanto per 6 mesi sono tenuti i soldi miei, non era un granché, erano 52 euro, però per 52 euro siamo tenuti 6 mesi, capito? E poi mi hanno fatto un rimborso, con un assegno circolare. Oh, mia moglie ci ha mandato le poste. Io quando lavoravo lei mi dava i conti correnti, la luce, le cose da pagare normali che ci sono in ogni casa, e io qualsiasi posta che trovavo nei paesi, a Trinità mi trovavo, a Barese, a Santa Maria Cogina, a San Valedoria, a Sorso, entravo e pagavo. Ma io mi hai pagato a Sassari, mi sto andando adesso, da quando sono a casa, capito? Sono andato, ho pagato la concessione delle radio, ho pagato la luce, ho pagato l'ultima tassa Mondetta, mi pare quella del 31 dicembre, che era in tre rate. Cose così, ma sono andato io, capito? Va bene, avanti Eugenio, tu non paghi nuda, vabbè, quindi non te la fotti nuda. L'altro giorno siamo andati a mangiare dal tuo collega, il direttore Sciacchi, anzi già si mangia poco bene, sì. Infatti lo conosci, l'ho detto, lo conosci Eugenio, mamma mia, lascia perdere, mi ha detto. Scherzavo, ti ho mandato anche saluti, invece non siete visti, buono, non lo so. No, si mangia veramente bene, si paga normale, però si mangia molto bene. Abbiamo fatto un po' mezzo ristorante, mezzo pizzeria, che poi sai, su tutti i viziati, una ravina, ho voluto la pizza con la Nutella, ma poi ce ne ha mangiato un coso, un cazzo. Beh, vabbè, comunque si mangia molto bene. Dietro le sacche già, di fronte al quadrifoglio. Ho detto di fronte dove c'era il quadrifoglio, quello dei mobili che ha fallito, ha chiuso, di fronte proprio, all'angolo con lungomare, dove c'era esattamente la discoteca. Ah, io ho capito. Fine, quando ha chiuso la discoteca, inizialmente c'era la discoteca lì. Vabbè, sì, si mangia molto bene, no? Ma già, una pizzeria enorme, grandissima, molto bella, personale ad hoc, pure lui sta sempre in giro per i tavoli, gli ordini li prende lui, è una persona molto seria, è collega di Eugenio, Non so come funziona, è molto amico di mio fratello, io lo conosco, ma è molto amico di mio fratello, infatti mio fratello ci ha portato lì, capito? Non lo so, di chi è la sua, la pizzeria, della moglie, dei figli, di chi è oggi? No, è la sua, è la sua perché lui non è dipendente, capito? Non è dipendente, come te lo dipendente Eugenio, loro sono soci della compagnia portuale Gianni, quindi un'attività la possono avere. Lui è collega, anche lui è socio. Ormai il compagno portuale era più molto prima, quando ci pulisci da io. Adesso ci sono i soci che mantengono in piedi la struttura. C'è un presidente, un direttivo, bimbumba. Si spartiscono gli utili. Chiaramente. E lui quindi ha la sua ditta, la sua società, la sua cosa, guadagno pulito, ordinato. Cazzo, però oggi c'è un grande sacrificio lì, Che pizzeria, Rove, di cosa siamo proprio indenni? Ah, pizzeria, noi l'abbiamo presa così la pizzeria. Noi l'abbiamo fatto questa cosa, la pizzeria già esiste, già presa. Ho capito, l'ha presa pronta, me l'ha detto, ce l'ha detto mio fratello, non è che l'ha costruita lui, no? Lui l'ha rilevata, ce l'ha in gestione, però ti sto dicendo che c'è un grande sacrificio, un grande lavoro, cioè non è che vada a dormire i chili, ogni volta che andiamo noi già, ci fanno aperta, forse andiamo anche sabato, è sempre pieno, e se non prenoti non mangi, è sempre pieno, quindi lavora, vabbè che c'è un traino di amicizia allucinante a Polo Torres, ma anche la Sassari, capito? Perciò per questo c'è un grande sacrificio. Avanti già. Però poi va a Polo Torres, io mi ricordo quando ero ragazzo di fronte che quindi era un po', c'era quello di Amare, c'era quello di Ponte Romano, ce n'erano due, Amaro venne qui, che di fronte che c'è Polo già, quindi no, non ce n'è, basta, no, non c'era solo quella, c'era Settebello, il Viale delle Vigne, c'era il Cordobes, c'era le Zume, che è stata sempre una balera estiva, da divertimento, da carnevale, c'era il Marini, vabbè, quello è fuori Porto Torres, però a Porto Torres c'era il Q24, è l'ultimo che è nato, che non era esattamente lì. Lì c'era un'altra discoteca che non mi ricordo come si chiamava, che poi è stato fatto il night lì, che la gestivano i fratelli Pinnetta, Costantino, Ciro e l'altro fratello, come si chiama? È Gilberto. Capito? Il Club 24 era di Romano Giordo, quindi c'era Odo Giordo con la sorella, con Patrizia, ed era esattamente dove c'è il supermercato di Via Mare, diciamo, di fronte al porto. Quale? Quello dove c'era la pizzeria, Brunetti si chiamava? No, dove c'era la pizzeria, infatti fa Club 24, poi è nato il Galaxy, poi è diventato Maiz, quello di fronte al porto, che c'è il supermercato, era Brunetti. Era Brunetti, ma si chiamava Club 24, no, sto confondendo io, lo so. Io sono andato via, avevo 23 anni da Polo Torres e oggi... Sono stato 2 anni a Sassari, a casa di mia suocera, abitavo via Montegrappa e a 25 anni mi sono sposato, quindi. No, quello è sempre stato più grande. Il Club 24 era dove c'è la batteria adesso, che poi era il Nike. Uno di voi si giocava a Batek. Sì, anche io, ma poi ci siamo stufati. Andavamo da Odo, ma più che ballare era tutta la greffa, che stavamo lì in piazza. Piazza Garibaldi, e c'era anche tra l'altro Odo con noi, c'era una bella greffetta, ti fate di Caravaglia, tutti, e vabbè, Silvano, quello vedo, quello che dico, Attino Bonovo, la greffetta, e quindi con le ragazzine che avevamo, andavamo lì a quel 24, quello era lì, già, era lì dove c'è il supermercato. Era lì, di là io, non mi ricordo, non so, non voglio dire fesserie, però poi io, 23 anni, ho conosciuto proprio mia moglie, io l'ho conosciuta al Club 24, è scesa a ballare con delle amiche, e via, e siamo qua, proprio al Club 24, Club 24 l'ho conosciuta, è scesa con delle amiche sue. Capito. E poi ce ne siamo andati a Sassari. Quando mi sono fidanzato, me ne sono salito a Sassari, perché lavoravo a Sassari e quindi vivevo da loro. E avevo 23 anni, quasi 24, 23, 24, 25, 26, 27, a 27 anni mi sono sposato, 5 anni sono rimasto fidanzato, 27 anni mi sono sposato. Gai est, oggi, Gai. Io non sono perché con gli stessi, la ragazzina, per Zoom era quello, Zoom ci andavo spesso, ma il più d'estate noi, anziché il 24, che era gaggio, andavamo allo Scoglio Lungo, capito? Allo Scoglio Lungo si ballava fuori, c'era Coso, Carlo Polo, che punia lì, c'era Dischi Giochi, lui ha iniziato Luciano Di Fraga, ma sto dicendo, vero? Ragazzo, facevo 19-20 anni, una cosa del genere, avevo appena finito il militare comunque, quando andavamo a ballare lì, e vabbè, bei tempi, vai già. Io andavo lì, alla dama di Furia a provare, a comprare la via. mandato anche all'aeroporto 84, che era quello del padre di Cosa, di Giocino. E poi, poi vabbè, qualche volta ho girato, ce l'ho fatto anche fuori, qualche volta, l'estate, ma quelle che facevo di più erano quelle di Ossi, quella di Provaghi, che poi a proprio si è fatto la greca con ragazze e ragazze, diciamo che sì. Poi sì, poco ci andavo io. Poco. Poi, quando poi sono salito a Sassari, ci andavamo poco a ballare. Siamo sempre in giro, a destra e a sinistra. Allora si stava molto meglio. Eravamo più giovani. Allora, era Ivanuta. Avanti, genio. Passiamo ad altro. Per il resto, quindi questa moto... La fotografia mi hai mandato, boh, mi hai capito un coso ma non riesce a brillo. Sì, riesce a vedere. No, non so, allora, sono accorto a cudire la terra, esce che tutto il giorno sta squillando sto telefono, per carità. Sembra un momento è tornato al lavoro. Perché quella vecchia l'avevo vista, addirittura l'avevo vista in piazza quest'estate, con tua moglie. Quella l'avevo vista, quella vecchia, l'altra che ci aveva, dai, questa non so che modello è. Per me Gianni, non mi dici? No, stavo guardando il cellulare, perché ha mandato un messaggio e stavo guardando il cellulare. Quanto ne hai di malattia di nuovo? Mai. 5 giorni ne ho aperto, adesso mi scappo, adesso mi tocco, mi hanno detto di stare a riposo alla camera per fare, mi hanno fatto le medicazioni, mi hanno fatto la visita, mi hanno fatto i messaggi, il piede, sotto il callo, quello che c'è attorno, mi hanno detto di stare a riposo. Beh, è normale. È normale. Se non chiude di nuovo. Se vado a chiudere. Vai e ti fai un altro po' di lavoro. Allora vuoi ti fare un altro mese di malattia. E così ti avanti. E devi fare. Sì, non c'è veramente merce, come dice quello. Non ci comparate, lo mi chiama nuovo, ma è mai possibile. Che mi ha preso. Mi ha preso stretto, credo. No, no, io anzi, mi sto muovendo un bel, sicuramente ho sbagliato la taglia, a me piace XL anche se mi sta giusta, diciamo, larga, infatti questa è una L, la mazza, è una L, ecco perché mi stringe sotto le braccia. Va bene, va bene, esce a vedere la moto, esce a vedere la moto, e te che farà, dove sei? Beh, come mai qua non ci sei, cazzo? Riprendi già. Sì, io ce la fa vedere. La cosa l'ha presa superiore, come ci ritratta? Sì, questo mi dice. L'altra? Mi dice. No, dico l'altra, che è quanto è necessario. Ma tanto non sono molto che sono, non sono molto che c'è una strada da me. Ah, questa è già cabina. Quanto fa? Ma io ce l'ho in Roma, non so strada, ero 180%. Ma come ce l'hanno? Hanno più di più tipo ciopero che... No, no, un altro modello. La nuova? Sì. Ma mi sa che c'è anche una anche lo so. Cosa? Che mi pare che ci sia anche una anche non che ne vede di avvenire. No, no, c'era, ma non c'è. Ah, ma non vede più. Quindi non c'è più nessuno come concessionario per sabato. Sì, a casa. C'è nessuno. E tu cosa se la stanno con questo? Perché stava giocando con questo? mandato questo, questo era un collega che mi ha mandato la foto di un impianto. Non sei tu, dove me l'hai mandato questa? A che numero me l'hai mandato? Non è più fatto. meglio Ginisca per Gabigià. Come te la faccio io? Che vuoi fare dentista? No, per un mio, quello qua a capo. Tu non hai poggio il dito, parte da sola, la rubrica. Fare un coso, A, B, C, D, E. Boh. Allucinante. Perché tu non lo devi mettere nella mappa dove ci sono la A, B, C, D. Devi farlo scorrere dove ci sono i numeri. Se tu lo fai scorrere dove ci sono la A, B, C, D, fai quella rubrica normale. Tu fallo scorrere dove ci sono i numeri, invece che farlo scorrere dove ci sono le lettere. Infatti così sono facendo. Io manda che sono garratrezzi. Cazzo, vale faccia un camion, cazzo. Va la moto, un camion, vale faccia. Una ruspa. No, mi è arrivato niente. Nulla mi è arrivato. Ti ho memorizzato il numero di telefono. Mali meducas. Per carità di Dio. Io mi chiamo più dentro l'altro il telefono. Maestà, io faccio tutto, anche la foto dell'apparato che mi avevi mandato. E cosa vuoi ti dica? Sto letto, ho cambiato il telefono. Ho cambiato il telefono. Questo è un po' più complicato, però normale. Ti ho inserito, salva, salvato, me l'ha dato, WhatsApp. Sono entrato adesso, vediamo se. Se ci sei, batti un colpo, vediamo. E se c'è pezzo. Non cambia più. Vitto, ne vuoi, era matto delle mani. Eccolo qua, ripartito. Vediamo se ci sei. E che ti ho inserito? ABC. Lì. Chi è questo? Questo è un imbecille che ho bloccato. Un altro. Mauro, no, ancora non ci sei qua. Va bene, e allora, che dici a me? Sempre bene, sempre magnifico. Sono proprio. La ricezione è alta. Chi che ce l'ho? Chi che Luca ti ha salutato? Ciao Rugarie, arrivi in basso qua. Guarda che una pompa. Che microfono stai usando? E va bene. Sto andando a piccare. L'audio mi senti adesso? Sì, adesso sì. Ma è bene. Sì, già ti sento. Segnale che è basso, già ti sento la radio. Prima con la antenna mi arrivavi Santiago 9, adesso mi arrivi 5. Ma come sei messo a campione? Come? Ho detto, come sei messo a campione? Devo la fetta. No. È dimezzata della metà, non c'è più la base quella che dava la finestra, c'è solo una base. Ho tolto tutto lui, non c'è via nulla avere tutto questo monumento di Mazzini senza grattarlo. Ogni settimana mi costava ore e ore di sacrifici, smontare tutto, togliere la polvere, pulire, aspirare, dovevo passare dietro, no. Basta, tutto dentro le scatole. Fammi una foto, guarda la sua volta, guarda, sono curioso. Cosa? Cosa hai detto lui? Mandami su WhatsApp, cosa? Una foto qua. Ah, ma quello che te la mando. Ecco qua, genio, adesso ci sei. Non stava funzionando WhatsApp, aspetta. Perché ci metto un po' a pubblicare su WhatsApp, non è una cosa tanta. Luca, senti Luca. Accetto Luca. Cosa? Già. Ehi, arrivi. Siamo durati, Luca. Lu, te l'ho mandata, guarda però, come si dice, di lungo, perché è fatta di lungo la foto. Solo quella base lì c'è adesso, l'altra base l'ho tolta, quindi tu immaginati quella lì più l'altra base uguale, precisa identica, però gli altri li ho tolte tutti. Ah, sì, ma luce poco. Quella è 2,10 m la base. Andare via 570, era L prima se ti ricordi, l'altra parte l'ho tolta perché intanto no, è tutta roba che non stavo usando, l'ho tutta conservata, faccio un armadio pieno. canale sì? Sull'11, cioè sono 50 persone, 30. Ah, sei nei gruppi? Sì, nei gruppi. Negli africani non sono nessuno. Perché prima c'era lei su quanto ti detto, l'hanno fermato. Io c'è più. Mi sta dicendo che... Bella, molto meglio dell'altra. Ma la mia, la nuova. Cazzo, secondo me tu c'è bene, facci tu meglio dell'altra, cosa vuol dire? Ciao, ma stai parlando con me o con lui? Con te sto parlando, facci tu bella una moto, meglio dell'altra, cazzo già, ma dalle qualcosa. Quella non si chiama molto, l'hai visto il cruscotto? L'ho visto sì, per quello che l'ho detto, molto bella, meglio dell'altra, manca paragone. E il cotto non è bene. Beh, quella c'è una moto o ieri, non cagati, moto, quella è una moto. Claudio, ho fatto un bel discorso. E lui? Una cosa, quella radio che è vero, la foto di cosa, di parte, quella radio tutta illuminata. Al là che stai dicendo? Che ti mando l'altro pezzo perché ti ho mandato un pezzo solo che c'è il DAC, falle vedere il DAC, quello è un baracchino, faglielo vedere, vabbè c'è l'amplificatore dopo. Ma quella che c'ha fatte? Quella sta illuminata, sono fermo grande. Torno ai 9.000, 10.000 euro. vabbè, lascia perdere. C'è un sacco di soldi, se lo vuoi fare, se no basta anche una radio e boh, la fai di su, poi va. Però un accordatore cosa? L'accordatore. E c'è la radio sotto, sta facendo un accordatore, è vero, è la cosa incrociata. C'è un accordatore. Una radio l'accordatore. E chi è l'accordatore? Non ha già accordatore. Ah! Sì, quello della Kenwood, quello è la T230 di linea della radio che c'è a fianco, no, vedi? L'altra che ti ho mandato è l'altro pezzo che c'è più indietro, dove c'è il DAC, guarda il DAC, quello è un baracchino, fammelo vedere a Vittorio, quello è il baracchino più grande del mondo, non ce ne sono altri baracchini così grandi. Sì, ti ho mandato l'amplificatore e il DAC. C'è l'altro pezzo, poi non c'è altro perché ne ho tolto tutto. Al DAC è questo volta di Twitter. DAC? Quello volta di Twitter. Allora di Twitter, fai strumenti sono quelli. Vabbè la mia Twitter. Te lo mando illuminato, aspetta che l'accendo, ti mando solo il DAC illuminato, aspetta, guarda. Oh yeah! Genio! E non si esci da tutto, lasci la moto. Perché c'è l'antenna attaccata, siccome il commutatore è a 4, c'è l'antenna attaccata lì e ascolto il canale 23, capito? K di Rosmetro. Allora io c'è le 7.20 sono e beh c'è il doppio e no, per cui atteso ti guardiamo sempre con il dente il PMR canale 7 ma su quella no, in PMR in UHF e quando tu lo voleva non l'hai voluto invece per te l'anno scorso te lo volevo dare uno ne avevo 4 adesso ne ho 3 solo te lo volevo dare e non l'hai voluto invece per te. Allora di 60 anni ma non sono rimbambito. Ti volevo dare una radio grande, Una radio grande te la volevo dare per non stare a fare pubblicità. No, ci sono bambini. E che tu stavi prendendo? Assieme al Kenwood c'era anche quella lì. C'era anche quella, c'è anche quella inserita. Stavo dando quella. inserite anche quella banda lì, capito? Ah, tu mi hai detto no, ma me ne faccio qui e là. Vabbè, l'ho venduta, quella l'ho venduta, ne ho venduta anche un'altra, ho tenuto solo la roba essenziale, 2 HF, 430, 440 L, e i basi UHF, UHF. Poi sono tolto tutto a mezzo piedi, perché sennò è roba che non usi, si guasta. Perché ho regalato la linea Alicraft, che manco accendeva più, proprio esaurite le valvole completamente. No, io sono molto contento con le funzioni. Quello che hai preso da Marco è quello che nasceva a radio. Ah sì, anche quello. No, adesso si è a posto. C'è belle radio sia nel camper che nel furgone. La Fervavici era un catamarano, per carità. Mi sono sempre dimenticato, se vado in quel laboratorio di questo amico che c'era lui, ti faccio la foto e te la mando, per farti vedere com'è dentro, pare che vi siano entrati i goji, i vichinghi. Tutti i becchi ci sono, cazzo, per carità. Gianni. Pirata. Vai, cocca del due, vai. Allora ti mando un video col mamontone che le prende la campana nelle balle, ce la sta suonando, sveglia! Sto scaldando il pranzo. Buonasera a tutti, non so chi c'è, ho acceso adesso, proprio adesso. Niente, a pranzarci ne è pigiato, per carità, come sei messo. Tutte le sere ci siamo noi un'oretta. Un'oretta tutte le sere ci siamo, io, Gianni Eugenio io, Giulio è impegnato con lo sport, però tutte le sere un'oretta noi ci siamo, tu non ti fai sentire, bro? La mandronia, ciao Eugenio, ciao Gianni. Ehi, parlate in due, ovviamente è passato Gianni che è in città. A parte gli scherzi, l'altro giorno in TV stavano facendo vedere proprio una professione, no, quelli che collaudano i materassi per vedere qual è il più comodo, quello sarebbe una, per me una professione perfetta, eccezionale. E solo che tu ti trovi, e tra una e l'altra ha passato a potere. Non mi ricordo nemmeno che programma era, no? Vabbè, da, adesso scaldo la roba da mangiare, poi mi devo dedicare ad altro, dai. Non hai ancora mangiato? Negativo. Io non ci ho preso. Ma sai, qualche pasticcio, un pomeriggio, un po' di patatine, patatine fritte, così. Sbagliato. E poi più le giornate sono belle, più mi chiudo in casa, lo sai. Gira, esco, più quando piove, almeno mi fanno uscire più quando piove. Quando sono belle giornate di sole, chiuso a casa. Anche perché oggi era, sì, bello col sole, ma c'era un vento pure. È una tua scelta di vita. Te l'ho detto, dai una scrollatina addosso. Penso che il danno sia già fatto. Vai Claudio. Cosa Marco lì? Cosa hai detto Marco? Chi è che ha parlato? Io ho parlato, ho detto senti culi sugli allori, già stai bene. Ma non a te, no, Marco, ho detto. Vabbè, che lasciamo? 7:25, vabbè, io vi saluto, è arrivata anche mia figlia. E adesso mi metto perché devo andare a prendere la faina. Quindi vi saluto, un abbraccio a tutti, ciao Marco, Gianni, Eugenio, Luca con Vittorio, lì in tandem, e ci sentiamo alle prossime, dai. Statemi bene, a domani se coincide. Buon fine serata a todos, ciao. Ciao Claudio, ciao, ci sentiamo. Buona mangiata di freddo, me la prendi? Bisogna andare in due, via Usai, vado già. Bisogna andare in due, uno è prima. andare in macchina, capito? Se no è un casino. No, io la prendo da Pila vicino a casa, che è buona. Se tu piace qua di Pasqua, quindi abbiamo pianto per la fare che sì, sì, sì, sì, anch'io la prendevo lì. Però l'aria vuole andare lì. Andiamo lì, andiamo in due, un attimino la 600. La prendiamo, lasciami questo. Va bene, dai, baci, abbracci a tutti, a domani, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Già è buona, andavo sempre qua. Andare avanti. E a Pallottone si la sta facendo una festa, sempre su, tutti idraulici. Sempre per monte, il milione, il milione, ciao ciao, buona cena, sempre per monte, il milione. Ma quelli non c'erano un altro, quelli che erano quelli di politica, di più, ma il monte per monte non c'è niente. Va bene ragazzi, io ne approfitto per salutarvi, anche io lo scenario. Ci sentiamo domani. Ciao, bacio, abbraccio a tutti quanti, quelli bruci, anche quelli che ho le orecchie ferose. Ci sentiamo, ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo, ciao.